nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E finalmente dopo un'intera settimana eccoci di nuovo qui a raccontarci quali sono stati i fatti salienti di questa settimana e a dirci anche le nostre libere opinioni, naturalmente, quante cose. Stavo guardando gli ultimi ritagli di giornale, in questo momento sono tantissime, c'è da impazzire ogni volta. Quindi vi ricordo da subito, appuntatevi il numero verde per chiamare e per raccontarmi, insomma, un po' come le vedete le cose, il vostro punto di vista. Poi, come al solito, ve ne elencherò qualcuna, ma a volte è anche diciamo utile che qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice tiri fuori una notizia anche magari apparentemente di secondo piano, di terzo piano, che magari non è una delle più battute. Comunque il numero verde, dicevo, 800 24 00 24, sempre insieme sino alle 15. Vi ricordo che poi c'è sempre anche la pagina dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni, pagina Facebook, dovete cercare Roberta Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni. Tra pochissimo l'opinionista estemporaneo di oggi, ma dicevo, a proposito di qualche spunto che vi voglio buttare lì, naturalmente un tema centrale di questa settimana è stato il varo della manovra finanziaria. Napolitano ha parlato di prova straordinaria, lui che ha chiesto la coesione da tanto tempo e sappiamo invece di tutti, insomma, i coltelli tra i denti. E qualcun altro, qualche commentatore dice, ma forse questa manovra, i tagli, le cose, certo aggiusta un po' il bilancio eccetera, però è tutto sulle spalle dei più poveri, dei meno abbienti, la casta invece continua con i propri privilegi. Cosa ne pensate? Poi anche il caso Papa, il caso del deputato del PDL Papa, sapete, coinvolto nell'inchiesta P4. Ieri la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha votato per l'autorizzazione all'arresto. Adesso il voto passerà alla Camera nei prossimi giorni e diciamo che l'autorizzazione per il momento è passata con i voti dell'opposizione. Il PDL ha lasciato l'aula. La Lega è piuttosto combattuta, anche se Bossi ha detto la mia risposta è in galera. Poi vedremo come andrà a finire, ma intanto cosa ne pensate? E poi l'allarme Istat appunto sulla povertà in Italia, dati altissimi, sarebbero 8 milioni più o meno le persone poco abbienti in Italia e i poveri, tra i poveri sarebbero 3 milioni, quindi insomma per un paese come il nostro delle cifre un po' preoccupanti. Poi un altro militare morto in Afghanistan, il delitto di Melania, sapete che c'è stata questa svolta questa settimana, oddio, qualcuno potrebbe dire una svolta un po' banale, insomma poi vedremo anche lì, non giudichiamo prima, però sapete che è stato richiesto l'arresto del marito di Melania Parolisi, unico indagato per questo delitto, gli sviluppi del caso Murdoch e poi anche l'annullamento della giunta romana di Alemanno perché è poco rosa, perché è molto maschilista, come scrive oggi Francesco Merlo su Repubblica, che è stato opinionista estemporaneo della scorsa settimana. E io dico anche è giusto così, perché se gli uomini pensano sempre di partire dagli blocchi di partenza un chilometro prima delle donne, si spalleggiano sempre tra di loro, è chiaro che le donne partiranno sempre qualche chilometro indietro. 800 24 00 24, ma prima di scoprire chi è l'opinionista estemporaneo di oggi, io vorrei anche confermarvi che non ci sono più le mezze stagioni, intanto dobbiamo darci delle certezze. Ebbene, sapete che l'Italia è sempre stato considerato un paese di santi, poeti e navigatori, non ci sono più i navigatori di una volta, mi spiace, ma ci sono degli navigatori di oggi, appunto, come cambiano le stagioni, sono i navigatori di internet. In Italia un italiano su due naviga su internet, come siamo avanti, non abbiamo le vele di una volta, ma insomma andiamo veloci con le dita, ed è diventato internet, secondo questa inchiesta del Censis, il rapporto del Censis, uno dei principali mezzi di informazione, anche la radio, non se la passa niente male. Ma signori, signori, chi è l'opinionista estemporaneo di oggi? Massimo Fini. Pronto Massimo? Sì. Ah, ecco, no, pensavo ti fossi addormentato un momento, sai, allora. Ecco, stonato un po'. Caro Massimo ogni tanto, insomma, è il benvenuto, sapete, sono particolarmente affezionata a Massimo, tra l'altro, essendo il mio maschilista preferito, volevo chiederti sulla questione quote rosa, Alemanno, eccetera, cosa ne pensi, caro Massimo? Sono assolutamente contrario, nel senso che mi pare mortificante per le donne il fatto che ci siano delle quote rosa, cioè una persona si deve affermare in qualsiasi campo per le proprie capacità e proprie... Hai ragione Massimo, siccome le donne sono capaci, ma gli uomini se vogliono tenere strette tra loro il potere, dicono, voi continuate pure a dimostrare dimostrare il vostro merito, ma noi ce ne stiamo tra noi come in un circolo privato, che so, di hockey, una cosa, di bridge. Ma mi pare, questo mi pare un discorso vecchio, nel senso che le donne oggi hanno tutte le possibilità di affermarsi, almeno diciamo in un paese come il nostro. Basta vedere, scusa Massimo, nelle stanze dei bottoni, dalle piccole alle grandi aziende, ai centri di potere, di finanza, sì, politica e anche soltanto a livello territoriale. È chiaro che sia Alemanno, che sia di destra o di sinistra, qualsiasi altro sindaco, sceglie su 12 assessori 11 uomini e una donna. È chiaro che le donne possono essere brave quanto vogliono. Ma devi calcolare che la base su cui pescare è minore, nel senso che... In che senso, scusa? Nel senso che molte donne preferiscono invece, non so, fare... Stirare, dice, hai ragione. E il mio maschilista preferito non mi ha deluso neanche questa volta, Massimo Fini. Ma Massimo, volevo anche chiederti... Che, insomma, una che si dedica ai figli sia una cosa... No, così, ma tante donne desiderano, visto che sono multitasking le donne, al contrario di tanti uomini, preferiscono avere sia una famiglia da seguire e avere anche un lavoro che le possa soddisfare. Sì, tieni presente però che questo passa per sulla pelle della donna in modo pesantissimo, perché... Certo, se gli uomini dessero una mano in più... è l'unica che fa un doppio lavoro in questo paese. Allora, quindi leviamole un lavoro e lasciamolo solo l'altro. Massimo, non mi hai delusa neanche questa volta, ma volevo chiederti, tu eri preoccupato? Di che cosa? Del silenzio del Presidente del Consiglio. Non me ne fregava assolutamente nulla. Come no? Secondo me eri preoccupato, ti ho visto un po' atteso in questi giorni, no? No, so che è caduto in bagno. Sì, poverino, questo è un incidente che è accaduto ieri o l'altro ieri, però il silenzio durava da molto prima, non è che si è zittito per il bagno. No, per carità, lui non sta mai zitto. Poi ieri è intervenuto. È una settimana di riposo per noi, non per lui, non ci può far che bene. Massimo non ha bisogno di presentazione, si presenta anche solo con la prima parola o col saluto, ma sapete che è scrittore, che è giornalista del Fatto Quotidiano, ho visto il pezzo oggi sull'Afghanistan, so che è un argomento che sta particolarmente a cuore, tanto è vero che il tuo ultimo libro per Chiare Lettere si intitola I Mullah Omar. Sì, è per Marsilio, per la verità. Per Marsilio, perdono. È una storia, una biografia del Mullah Omar e anche una storia dell'Afghanistan degli ultimi anni. Che tu tra l'altro conosci come paese, no? Sì, te ne sei occupato certo. tanto tempo e continui a occupartene. Qualcuno ha detto che sei stato un po', come dire, agiografico in questa, come il Mullah fosse un povero ragazzo. Ho raccontato le cose così come sono avvenute, cioè perché si è fermato il movimento talebano e la storia della resistenza afghana all'occupazione straniera, insomma. Senti, io penso, scusami se ti interrompo Massimo, che sia una cosa straordinaria, poi andiamo naturalmente anche sulle altre notizie, che in paesi come questi, che parrebbero poveri, deserdati, sgarruppati con integralisti, eccetera, alcuni, altri no, mi rifaccio al Vietnam che nulla aveva a che fare con l'integralismo, ma insomma, spediscono poi a torto o a ragione, e gli occidentali in Vietnam a ragione li hanno spediti, con un calcio nel sedere fuori, e arrivano gli occidentali con eserciti, super tecnologie, cose, com'è che non ce la fanno? Nel caso dell'Afghanistan è un popolo che ha mentalità, tradizioni, valori completamente diversi dai nostri. Noi arriviamo, l'Occidente arriva lì con i propri valori o non valori, insomma comunque la propria mentalità, non capisce la mentalità altrui, e poi innanzitutto gli afghani, come altri popoli, ma più di altri popoli, non sopportano la presenza dello straniero armato, mi pare assolutamente legittimo. Hanno cacciato gli inglesi nell'Ottocento, hanno cacciato i sovietici nel Novecento e cacceranno anche gli occidentali. È un loro legittimo diritto, io credo. 800 24 00 24, tra poco Maria da Savona, però volevo dare anche un po' di spazio ai facebookiani che sempre diciamo partecipano numerosi alla pagina di Non ci sono più le mezze stagioni. A proposito delle notizie di questa settimana, vediamo brevemente qualcuno che scelta ha fatto. Michele dice come si fa a dire quale notizia della settimana, è un calderone di porcherie, dice. Stefano scrive: sicuramente è l'allarme Istat sui poveri a cui si oppone la figuraccia di qualche giorno fa, quando i nostri parlamentari si sono detti contrari con tanto di voto, solo 83 a favore, tra cui l'Italia dei Valori, dice, all'eliminazione del vitalizio per chi ha fatto almeno una legislatura. Poi Riccardo scrive, se non altro la finanziaria sa un po' di déjà vu. Per Enrica dice, quasi tutte le notizie di questa settimana, in particolare il caso Murdoch. Domenico Alberto scrive, la manovra finanziaria, considerato che per la casta dei politici continuano a esserci le mezze stagioni, per loro non cambia mai nulla e non ci rimettono nulla. Franco invece segnala il biotestamento, che anche se non sarà soddisfacente è comunque un cuneo inserito, anche se non specifica dove. Ma a proposito di biotestamento, è un altro argomento che ha coinvolto molto i facebookiani. Sapete che è passato un pochino in sordina, un po' se ne è parlato, ma così in maniera non con grandi accenti, diciamo, il disegno di legge che sta facendo il suo iter parlamentare. Allora vi leggo anche a te Massimo, poi mi dici cosa ne pensi. Alcuni commenti sulla pagina Facebook. Andrea scrive, il fatto che le volontà precedenti non siano vincolanti fa capire quanto buona sia questa legge, nel senso che diciamo credo sia l'articolo 3 quello più determinante, in cui appunto si lascia poi alla fine la decisione del fine vita di una persona in stato di incoscienza, in stato vegetativo, al medico. Quindi anche se ha espresso le sue volontà prima di ritrovarsi in una situazione del genere, né i parenti né le sue volontà incidono, perché è il medico che poi deve decidere. William scrive, cara Roberta, anche questa volta si è deciso di non decidere, anzi no, si è deciso di non farci decidere. Purtroppo tutti tengono famiglia, cerchio bottisti e finti liberisti, sia da parte di chi tiene la parola libertà nel nome del partito e da chi si proclama laico da sempre. Non cadiamo però nella retorica di dire sempre che in Italia c'è il Vaticano, dice William. Qua nessuno vuole fare scelte decisive per non scontentare chi gli dà il voto. Dora dice, ah Binetti, ma non credo che sia stata proprio una delle maggiori portabandiere in questo caso la Binetti. Poi Angelo dice, siamo vittime del retaggio culturale religioso, imprigionati come in tutto, nell'economia, nel decidere sullo stato famiglia, coppia di fatto, eccetera. C'è l'intelligenza che sa come farci vivere. Poi Corrado scrive, rispetto agli anni 70 sul laicismo abbiamo fatto passi da gambero gigante, classe politica di ignavi. De Gasperi, scrive Corrado, in confronto ai baciapile odierni era Zapatero. Poi Monica dice, questa sul biotestamento è una norma liberticida, di fatto impedisce la libertà di scelta, la vita della singola persona è affidata alla volontà dei medici. Per chiudere, così poi mi dici tu Massimo che ne pensi, Enrica scrive, pensiamo a 30-40 anni fa, non c'erano questi mezzi per tenere in vita corpi inerti, la natura faceva il suo corso e forse era meglio così, senza il forse. Che dici Massimo? Beh, io sono assolutamente d'accordo con l'ultima facebookiana con Enrica. Questa nuova razza, sì, va bene. Con l'ultima facebookiana, nel senso che noi abbiamo diritto alla morte naturale, cioè a una morte che non deve, a una vita che non deve essere né accorciata artificialmente né prolungata artificialmente. E devo dire che la volontà della persona deve prevalere su tutto, non, è inammissibile che i padroni della nostra vita siano i medici. Questo, quando siamo coscienti, dovrebbe essere indiscutibile, nel senso che siamo noi padroni, la stessa Costituzione dice che nessuno può essere sottoposto a cure mediche senza la propria volontà. Consenso. Col testamento biologico, dove uno ha espresso la propria volontà, questo deve essere rispettato. Secondo me non c'è dubbio alcuno. È che purtroppo stiamo andando verso una società sempre più restrittiva, dove i poteri ce l'ha lo Stato, ce l'hanno le equip mediche, tecnologiche. Uno oggi più che di morire, c'ha paura, almeno io, di finire in mano a costoro. Anch'io abbastanza. Se ti devo dire la verità, 800240024 con il mio opinionista estemporaneo di oggi, che è lo scrittore e giornalista Massimo Fini, che ha appena pubblicato da poco tempo il Mullah Omar. Poi Omar, noi mettiamo l'accento, ma si dice poi così o il Mullah Omar, tanto per curiosità. No, Massimo. Va bene, Omar, sai, la lingua d'ari, per cui è un po' come russo, cioè Non è esattamente traducibile. Non è una scienza esatta, insomma. Leggevo poi sulle prime pagine dei giornali.it su internet, Corriere della Sera, la notizia delle ultime ore, Papa, parlavamo prima, il deputato del PDL, sospeso da funzioni e stipendio, e lui dice, il carcere, l'ultimo dei miei problemi, non specifica quale sia il primo. Ma sentiamo Maria da Savona. Maria. Salve Roberta, mi fa piacere di sentirti dopo tanto tempo. Tu sentimi sempre. L'ultima volta che avevo chiamato era l'epoca del diario ancora. Diario, tanti anni fa. Ma chissà mai. Cara Maria, bene, sono contenta di ritrovarti allora. Qual è la tua notizia di questi giorni? Sono rimasta colpita, a proposito della finanziaria, sì, da un paragone di Tremonti a proposito del Titanic, che quando affonda, affondano anche i passeggeri di prima classe. Se la passano un po' meglio di solito, sono un po' più io di sono riguardo. Piuttosto perplessa, perché mi pare che in questa finanziaria la prima classe non affondi. La spesa più forte dello Stato è il travaso nell'erario del Vaticano e non viene manco sfiorato. La seconda spesa forte dello Stato è il gruppo delle cariche elettive di tutto l'indotto e mi pare che non so neanche se venga sfiorato. Vengono colpiti come sempre le spese meno forti, cioè le spese di chi ha il coltello dalla parte del manico. Tra l'altro, con riferimento alla tassazione sui fondi di deposito, mi pare che la Costituzione stabilisca che lo Stato tutela e promuove il risparmio. In questo caso promuove lo scappare dal risparmio. Non so, sono estremamente perplessa. Sento la tua perplessità, cara Maria, ti ringrazio e mi ricordo di questa inchiesta che c'è stata proprio sul Corriere della Sera, ma che fa spesso poi Gian Antonio Stella, anche Sergio Rizzo, sugli sprechi della politica, sulla casta, loro stessi hanno scritto proprio La Casta, che è stato un super bestseller, e parlava in questi giorni sul Corriere del fatto che appunto a parte i politici italiani sono sempre i parlamentari i più pagati, almeno in Europa, addirittura diceva che i consiglieri regionali sono più pagati del governatore di New York, mentre negli Stati Uniti cercano un po' anche loro di, qui diciamo che insomma ci si dà, dico la pazza gioia, ma siamo lì molto vicini. E Maria, mentre dico che tra pochissimo c'è Grazia dalla provincia di Brescia e Luigi da Roma, di avere un po' di pazienza, in qualche modo ha richiamato la Marziana, sapete che Bussa da Marte è l'unico programma in tutto il pianeta che si collega con un altro pianeta, e credo che sia il momento, sì, mi sembra che sia arrivata con la sua, eccola. Riflessioni da Marte. Alla fine diciamolo, i bipedi umani divengono il più delle volte delle soluzioni ai vari problemi, no? Alle varie questioni. È evidente anche osservandoli da qui, da Marte, nella loro creativa laboriosità. Per esempio, dopo una complessa manovra di tagli e bricolage, come risparmiare al meglio anche sui ministeri? Ma portandone delle dependenze al nord, così i relativi ministri fanno casa e chiesa, bottega e casa, magari anche in bicicletta, senza dover attraversare mezza Italia, che diamine. Ecco dunque da qui l'idea di portare ogni ministero sotto casa del relativo titolare. Sarebbe anche molto più ecologico, effettivamente. Per dimostrare che non è vero che al nord si è razzisti, i mobili dei ministeri nordici non vengono dalla Brianza, che è poi la culla del mobile, che è lì a portata di mano. Io non ho, ma da dove arrivano allora questi mobili, gli arredi delle dependenze dei ministeri nordici? Arrivano da Catania. Un modo come un altro, diciamo, di celebrare l'unità d'Italia, ma questa è una libera interpretazione, diciamo, venuta lì per lì. Si avverte che ogni riferimento a cose, persone o patrie è puramente casuale. Si diceva dunque che gli umani divengono in genere soluzioni, no? Come nel caso di un giovane austriaco che in nome della libertà di culto è riuscito, pensate un po', dopo 3 anni ad averla vinta sulla motorizzazione lì in Austria. È stata autorizzata la sua patente nella cui foto egli appare con uno scolapasta in testa, sì, proprio in nome della libertà di culto. Se infatti ha sostenuto tenacemente in questi anni giovine, viene accettato il copricapo tenuto per motivi religiosi sulle fototessere di documenti d'identità, allora si deve accettare anche la mia foto col colapasta in testa. Egli infatti è un pastafariano, cioè un cultore della pasta, adoratore dello spaghetto volante, dio dei pastafariani. Alla fine non hanno quindi potuto discriminarlo, lui e il suo colapasta in testa, sulla foto della patente. Allo stesso modo, probabilmente potrebbero non discriminare il senatore, se volesse mai apparire sulla foto della patente col dito medio alzato, come è stato fulgidamente immortalato anche in questi giorni. Nel frattempo la sinistra però si dibatte in un ennesimo fondamentale dilemma: usare ancora il termine compagno o forse meglio amici, sodali, care e cari voi? E potrebbe a breve, per sciogliere il lacerante dubbio, lanciare un concorso per decidere su compagno sì, compagno no. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo. In fondo però, compagni, amici, cugini, siamo tutti sulla stessa barca, ha detto il ministro dell'economia, anzi sullo stesso transatlantico. Ma chi sta nel transatlantico del Parlamento? Sapete che quello spazio, quel corridoio dove stanno deputati e senatori, diciamolo, forse sta un tantinello meglio. siamo fatti un po' sentire tutti nella stessa barca, diciamo la verità. Ma ritornando alle vostre opinioni all'800240024, tornerei dunque ai numeri. C'è Grazia, ecco, della provincia di Brescia. Grazia. Buongiorno, vi chiamo spesso perché siete la mia radio preferita, mi aiutate molto a capire. Che cosa hai capito oggi, per esempio? Oggi no, ho sentito una notizia che mi ha lasciato allibita, non so se è vero, vi chiedo conferma perché poi non ne ho più sentito citare in altri giornali radio. Mi concentro, sentiamo. Nella vostra rassegna stampa, in quella di un'altra di Sky, ho sentito che la scorsa settimana avevano inserito nella manovra la famosa legge Salvini. Sì. Ieri invece, sembra, così ho sentito e penso che sia la verità, i nostri cari governanti hanno inserito un'altra leggina molto bella, che il loro stipendio, siccome non se lo sono diminuito, sì, visto che i poverini prendono come minimo 21.000 euro al mese lordi, anzi, il loro stipendio sarà legato al PIL, cioè se aumenta il PIL, in proporzione aumenterà anche il loro stipendio. Eh beh, scusa, se il PIL, cioè la ricchezza del paese aumenta, vuol dire che loro hanno il merito di farlo aumentare, che giustamente con quel poco che prendono lo rimpinguiamo. Produzione. Io chiedo se questa cosa è accettabile o se dobbiamo cominciare veramente a ribellarci, ma in un modo serio. Io so che anche il dottor Fini lo sentivo molto quando partecipava delle diatribe con Forbice Radio, che io non seguo più. Non devi più seguire, scusa, grazie. Senti noi. Grazie, ti ringrazio e giro subito la parola al dottor Fini. Massimo, che dici a proposito di questo? Di questa leggina, ogni tanto messe lì delle cosine, delle, come le clausole al fondo del contratto, che sono talmente piccole che anche con la lente di ingrandimento uno non firma. Beh, questo è un vecchio metodo, quello di inserire dei codicilli quasi nascosti nella legge, che sono poi quelle le cose che contano. Ma secondo me la frase più importante è quella che ha detto Tremonti quando ha citato il Titanic, perché il Titanic si sa che fine farà. Speriamo, ecco, di no. Ecco, e adesso al di là del fatto che questi non rinunciano neanche, almeno simbolicamente, per dare un segnale, non rinunciano a niente, anzi si alzano le cose, ma insomma, solo chi ha ancora fiducia nella classe politica può meravigliarsi di questo. Insomma, io credo che fosse giusta, anche se sbagliato il momento, l'idea dell'uomo di Guglielmo Zannini, l'uomo qualunque, cioè un grande ragioniere dello Stato, che almeno ci farebbe risparmiare migliaia di parlamentari, di consiglieri regionali, di consiglieri provinciali. Le famose province, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, che non sono state abolite. Inutile, che non serve assolutamente a niente, perché adesso non ci sono più neanche le ideologie, quindi scontri o di qua o di là, nel senso o col capitalismo, col marxismo, o con sono tutti, hanno abbracciato tutti il modello di sviluppo, produci, consuma, crepa, anche l'estrema sinistra, e quindi non, le differenze sono minime. Il fatto è però che effettivamente non noi Italia, ma noi mondo occidentale siamo sul Titanic, cioè perché un sistema che si regge sulle crescite esponenziali, che esistono in matematica ma non in natura, prima o poi va a sbattere. Magari adesso verrà tamponata questa crisi per il momento, come è stato fatto 2 anni fa, ma al prossimo colpo, a quello successivo, proprio il modello basato su questo tipo di cosa, sul denaro e tutto quanto, crolla, e quando la gente si accorgerà che non può mangiare l'asfalto e bere il petrolio, allora lì sarà una catarsi decisiva. Non possiamo neanche affidarci all'idea che quei cambiamenti climatici, gli iceberg oggi si sciolgono, no? Neanche questo, insomma, andiamo a impattare lo stesso, secondo te. Senti, sentiamo Luigi da Roma, all'800240024. Quale sarà mai la notizia di Luigi? Pronto? Buongiorno, signora Giordano, grazie per avermi chiamato. Grazie Luigi, ma ti prego, non mi chiamare signora, mi viene sempre l'orticare, mi vengono tutti dei puntini rossi quando mi chiamano signora. Dottoressa, non so. Sono dottoressa, ma chiamami Roberta, che preferisco. Grazie, Luigi. Grazie, sì. Roberto. Sì. Grazie ancora. Grazie a te. Allora, più che una notizia, io vorrei esprimere una mia riflessione su questo caso del delitto della signora Rea. La mia riflessione è questa, le mie riflessioni sono queste. Sì. adesso viene incriminato il marito, o diciamo il GIP deve decidere se incriminare il marito, ma ci sono due o tre aspetti di questa vicenda che non se ne tratta, non se ne parla, sono oscuri e non si sa perché. Sentiamo. Primo, sei un investigatore nella vita privata? No, prima c'è una telefonata di un signore, questo è indiscutibile perché sicuramente dove è arrivata la telefonata, o al 112 o al 113, viene registrato tutto, e quindi questo signore che ha telefonato dicendo che ha visto questo cadavere in quel posto, perché non ci si dà da fare per cercare questo signore? Si ha una registrazione della telefonata. Secondo, questo il signore marito, come ha fatto in mezz'ora a disfarsi di abiti insanguinati? Scusa Luigi se ti interrompo, ma poi dopo gli investigatori, gli inquirenti hanno praticamente dimostrato che gli orari che lui dava erano un po' inventati, non corrispondevano al vero, quindi non si tratta più adesso del problema di capire come in mezz'ora abbia fatto, perché pare che abbia detto delle bugie anche sugli Benissimo. Orari e sui luoghi. Diamo i tempi di aver fatto un delitto. Non c'è con tutte le dichiarate strutture scientifiche a disposizione, non c'è possibilità di avere un DNA, dove sono andate a finire questi abiti, da qualche parte devono essere andate a finire. L'arma del delitto non c'è, ma guardi che cercare un'arma... No, l'arma del delitto sono due, ieri c'erano degli aggiornamenti, Benissimo. Una sarebbe un punteruolo, un'altra un coltello, sono Benissimo. State usate in tempi diversi, è tutto abbastanza complesso. Luigi, però, chiaramente tu adesso, diciamo che nel drammatico poi a volte... uso questo termine tra parentesi, ci si appassiona anche diciamo a certi casi proprio perché sono così complessi, perché vengono fuori questioni torbide come appunto tutte le storie parallele anche del marito. Io se ti devo dire la verità, e non voglio giudicare e non sono un giudice, quindi la mia opinione è buttata lì e vale come il vento che passa in un minuto, in realtà io dei sospetti, ma diciamo per percezione psicologica, io non giudico, quindi posso dire un po' quello che voglio, non sono il giudice di cose. Che lui convincesse poco me l'ha data immediatamente dall'inizio. Poi ovviamente vediamo se finisce in carcere, ci sarà un processo, non ci sarà un processo, quello che succederà. Io ho avuto questa impressione. Luigi, intanto ti ringrazio. Sentiamo prima della prossima pausa Massimo Fini. Brevemente, Massimo, tu che idea ti sei fatto su questa cosa? Io detesto i processi paralleli, quelli che si fanno da Vespa, che dovrebbe essere immediatamente arrestato. Però non so se ha fatto ancora il plastico, a me non sembra di averlo visto. Perché ha finito le trasmissioni, se no si avrebbe inondato di lui, di crepè, di una serie di cose. Il mattone, eccetera, eccetera. Esatto. Vabbè, questa è un'altra questione. C'è una magistratura che fa le sue indagini, io contrariamente al nostro Presidente del Consiglio mi fido in linea di massima di quello che fanno i magistrati e aspettiamo prima di dare giudizi. È ovvio che quando viene uccisa una moglie il primo sospettato è il marito. Anche perché è molto banale considerando che in Italia due alla settimana ci sono di omicidi ai danni delle donne da mariti, ex mariti, fidanzati, ex fidanzati. Quindi diciamo abbastanza banale. Rispetto avuto le loro buone ragioni. Avranno avuto le buone ragioni, Massimo. Se t'acchiappo, Massimo, la prossima volta devi venire qua in diretta. E c'è Annalisa da Mantova. Buonasera a lei. Buonasera Annalisa. Che tempo c'è? Intanto, un po' grigino? Un po' grigino lì che mi dici buonasera alle 2 qualcosa? 14:36? Dicono che dopo mezzogiorno si debba dire buonasera. Sì, io lo ripeto ogni tanto. Le faccio i complimenti perché la sua è una delle più belle voci. Non condivido quasi mai quello che lei dice dal punto di vista ideologico, anche se apprezzo molto come... nelle sue osservazioni non c'è mai quell'indignazione, quella rabbia che spesso hanno i cittadini italiani quando telefonano a Radio 24, anche la sera alla Zanzara. Ecco, io mi piacerebbe esortare la gente a fare delle considerazioni più pacate, più pacate, sì, anche e soprattutto se, con una maggiore conoscenza delle problematiche. Anche se perdonami, devo dire che molto spesso la gente che è così arrabbiata che stigmatizza i comportamenti degli altri, soprattutto quando si parla di disonestà. Trovo che poi quando si trova in una posizione di potere è la prima ad assumere i difetti che aveva tanto stigmatizzato prima. A volte questo è un brutto problema degli italiani. Io faccio politica, sono una dirigente del Partito del Popolo della Libertà, lo dico con chiarezza perché certo. Si sappia, della città di Mantova, lo faccio in assoluto volontariato. Il mio sindaco che del Popolo della Libertà da poco tempo, perché Mantova è sempre stata una città di sinistra, mi ha incaricato, sono consigliere di amministrazione di una fondazione universitaria e ha valore zero come emolumenti, però grandi soddisfazioni. Però lo fai con grande passione. Annalisa, dimmi solo una cosa, poi dopo mi dici la tua notizia della settimana. Lì a Mantova come stiamo a presenza femminile nel comune? Beh, adesso è appena stato fatto un rimpasto dopo un anno di governo ed è stata scelta un nuovo assessore, una signora che è preside di una scuola locale. E quante preparata. Sono le donne su quanti? Su quanti assessori? Sugli assessori soltanto una. Bene, mandiamo, però, lì, mandiamo Massimo, anche lì Però Massimo Fini ha detto una cosa molto giusta. Sì. Il campione sul quale pescare non è amplissimo. Non è vero, Annalisa, non è vero. Ci sarebbero tante donne capaci e che vogliono fare, non solo sono capaci, ma vogliono fare. Però trovi sempre il tetto di cristallo. Ma va visto il curriculum. Annalisa, ci sono un sacco di donne capacissime. Adesso non diciamoci che non fanno passare le donne perché non hanno il curriculum giusto. Le donne, lo sai, devono fare 10 volte di più, essere 10 volte meglio gli uomini per ricoprire uno stesso ruolo di un uomo che è 10 volte meno di lei. Ecco, questo io non sono molto d'accordo su questa. Tanto non siamo mai d'accordo. Ho detto, Annalisa, l'importante è che ci apprezziamo. Molto, questo è un bel complimento. Trovo che a volte le donne pecchino un po' di superficialità se gli uomini sono Annalisa, sono gli uomini che ci hanno gettato in questa crisi finanziaria globale, capisci? Sono gli uomini, l'hanno riconosciuto gli stessi uomini, cioè uomini ad altissimi livelli, l'hanno detta anche questa cosa. Io in un primo momento ero contraria alla legge sulle quote rosa, poi in un secondo momento ho detto accettiamola anche perché dà la possibilità e poi è una legge che è temporanea. È temporanea, quindi, almeno per cominciare certo a equilibrare, poi dopo appunto, ecco, per cercare di equilibrare, però non sono io, lo dice il Corriere della Sera, che non sarà così facile trovare dei profili con del meritocraticamente al livello delle competenze richieste, a parte che dovremmo aprire anche un altro discorso se nei consigli di amministrazione oggi si faccia veramente la leadership delle società quotate. Beh, questo è tutto un altro discorso. Sì, sono questioni complesse, però siamo sempre un po' alle solite. Prego Annalisa, proseguiamo. No, semplicemente volevo dire questo, ecco, spesso e volentieri quello che io vorrei dire è che non è vero che, come disse Alessandra Mussolini tanto tempo fa, ci sarà una vera parità quando un'assoluta cretina sarà in un posto di comando. Ecco, no, io credo che ci debbano essere delle persone competenti. Di cretini uomini ce ne sono veramente a bizzeffe, diciamoci, di corrotti anche, ce ne sono veramente tanti, quindi un po' d'accordo con la Mussolini in questo, lo sono, anche se è auspicabile che non ci siano né cretini né cretine ai posti di comando, però insomma mi pare una buona metafora. Annalisa? Pronto? Sì, ci siamo. Bene. Benissimo, ho detto. Poi la notizia del giorno, ma questa richiesta al GIP della carcerazione preventiva per il marito di Melania Rea, devo dire che mi ha colpito nelle interviste, io sono anche un avvocato, mi ha colpito moltissimo la differenza intellettuale anche di densità come persone tra la famiglia di Melania Rea e il marito. E lui, sì, anche a me molto questa cosa. Questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo. Vedremo come andrà a finire. Annalisa, senti, come avvocata cosa pensi dell'insubordinazione, della rivoluzione quasi che c'è stata 2 giorni fa in Parlamento quando si doveva votare proprio in extremis la manovra e gli avvocati parlamentari hanno avuto paura che fosse abolito il loro ordine? Cosa ne pensi brevemente? Io penso che la bravura e la meritocrazia, anche se molto faticosa, alla fine vengono sempre premiate nella vita. Certamente essere bravi, fare onestamente il proprio mestiere senza amicizie, senza avere... Ma quindi ordine sì o ordine no? Gli avvocati. L'ordine è evidente, io sono per l'esistenza dell'ordine anche perché è qualcuno che determina soprattutto le questioni deontologiche. Sì, anch'io sono piuttosto d'accordo, anche se quelli che stanno in Parlamento sono una cosa un po' a sé stante. Annalisa, ti ringrazio, continuerai a sentirmi anche se non siamo mai d'accordo? Sì, certamente, molto bene. Molto piacevole. Grazie Annalisa, ti stringo la mano. Allora, Alfredo da Torino. Pronto? Pronto Alfredo. Buongiorno Roberta, grazie di avermi richiamata. Grazie a te che hai chiamato. Allora, io volevo solo fare un appunto. Sì. Vorrei sapere questi signori come possono non aver abolito le province e aver inserito di nuovo il ticket sulla sanità. è una cosa che secondo me è inconcepibile. I loro privilegi sono rimasti praticamente invariati. La povera gente invece, quando si fa male o comunque ha qualche problema, deve pagare il ticket. Quanto potranno recuperare da questo bazzello, da questa tassa? E quanto invece ci costa mantenere le province? Alfredo, ti ringrazio e subito la patata bollente io la passo a Massimo Fini. Ma è un discorso più generale, è ovvio che le province dovrebbero essere abolite, l'hai detto già prima, ma è chiaro che sono un centro di potere per drenare denaro, questa è l'attività principale della nostra classe politica, anche nelle persone che sono oneste personalmente, ma il sistema è quello. Mi diceva Tiziana Maiolo, che non è sospettabile in questo caso, che ogni amministratore, lei ha usato questa frase, deve portare la pappa al suo capobastone. Questa è la ex assessora, no? Comunale, sì, provinciale a Milano. Eccetera. Sì, la Maiolo. Sì. Oltre che, mi pare, parlamentare a lungo. Sì, sì. Ecco, quindi che ha vissuto dall'interno tutta questa cosa, ma che conosciamo. Cioè, questa non è una democrazia, questo è un sistema di oligarchie, di minoranze organizzate, chiamate partiti, in cui ci possono essere anche persone per bene, ma in linea di massima sono appunto delle lobby non molto differenti dalla mafia. I metodi sono gli stessi, tranne l'assassinio, cioè voglio dire, taglieggiamenti. Cos'è la tangente? La tangente è il pizzo, no? Tu lavori solo se paghi. Quindi il discorso è più generale. Certo, diciamo, le province sono una cosa particolarmente scandalosa, perché tutti sanno che non servono assolutamente a nulla, ma vorrei sapere quanto servono anche i consigli regionali, vorrei sapere alla fine quanto serve il Parlamento. Certo, si potrebbe risparmiare moltissimo se si volesse, ma veramente. Soprattutto si potrebbe risparmiare non tanto sugli stipendi di costoro, ma sul fatto che le democrazie sono storicamente statisticamente i regimi più corrotti del mondo. Perché so che tu hai scritto uno o più libri sulla democrazia, no? Tu sei che si intitola Sudditi, manifesto contro la democrazia, sì, quindi più esplicito, rappresentativa, più esplicito di così non può essere, che è argomentato e tutto quanto. È chiaro che basandosi sulla competizione fra partiti, i partiti devono costruire apparati, per costruire apparati devono avere dei soldi, per avere dei soldi e devono drenarli da qualche parte, e li drenano o dalle casse dello Stato o comunque sempre alla fine dalle tasche dei cittadini. È un problema enorme che non riguarda solo l'Italia, ma il fatto è che la democrazia rappresentativa non è la democrazia, è un sistema di aristocrazie mascherate. 800 24 00 24, vi ricordo che c'è sempre la pagina Facebook per i vostri commenti nelle prossime notizie, poi che naturalmente si succederanno numerosissime durante la settimana, dovete cercare Roberta Giordano, non ci sono più le mezze stagioni. E se anche volete proporre delle foto di politici per la patente con qualcosa in testa o qualche segno eccetera, a proposito del caso del giovane austriaco che ha vinto con la sua causa, con la motorizzazione, di poter avere sulla patente la sua foto con la pasta in testa, potrebbe essere anche un'idea carina. C'è Mario dalla provincia di Napoli. Pronto, salve Roberta. Salve a te, caro Mario. Ciao, buongiorno. Qui è una bella giornata, comunque, contrariamente alla... Qui è grigio, diciamo, è tanto grigio, sì. All'ascoltatrice, mi sembra, di Bergamo, che ha parlato, Annalisa. Mantova. Che ha anche un ruolo, se non sbaglio, di potere nel consiglio come esponente del PDL. Comunque, tralasciando queste cose, siccome so che Radio 24 ha una grossa platea di ascoltatori, grossissima, enorme, infinita, sì, sì. Enorme platea, sì. Io volevo fare una proposta, diciamo, una proposta riguardo... Quanto sempre... indecente questa proposta, dipende, Mario, si può dire a quest'ora? Sì. Assolutamente. Dice, non penso che sia una proposta indecente. Comunque, riguardo sempre la manovra approvata ieri sera dal Parlamento, appunto ha destato molto scandalo sta situazione della casta che si protegge sempre i suoi privilegi. Per cui so che c'è stata un'iniziativa su Facebook, sì, che in pratica è denominata 1 milione di firme per la riduzione dei stipendi dei parlamentari. Quindi vorrei invitare molti ascoltatori che utilizzano questo social network a magari a far arrivare la loro adesione per poter cercare di ottenerne qualcosa veramente sul serio, perché qui pare che le cose sul serio non si fanno, insomma. Bene Mario, una specie di movimento che viene dal basso, come è stato anche per le ultime elezioni amministrative, referendum eccetera. Questo è l'invito di Mario. Adesso invece io invito ad ascoltare, a galoppare veloci veloci verso la satira di Spinoza.it, di cui è creatore il nostro Stefano Andreoli. Che istantanea ci fai di questa settimana, caro Stefano? Pronto, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a te. La settimana scorsa mi ero dimenticato di parlare della sentenza sul lodo Mondadori. Beh, è la settimana scorsa, però vuoi parlare adesso? Sì, lo so, perché è successo sabato, tra venerdì e quindi dopo una cosa. Beh, comunque la multa per Berlusconi passa da 750 a 560 milioni. Sconto. Del resto è periodo di saldi e quindi questa cosa gli è andata dietro. Berlusconi, voleva dire, sì. Berlusconi ha già detto che pagherà, resta da stabilire chi, però ha detto che pagherà, quindi ecco. Tutto tranquillo. Veniamo a notizie un po' più leggere. In Texas nasce bambino da 7,5 kg. Mamma, anch'io ho pensato quella povera madre. Che condizione. Tremata anche la cicogna. Nasce bambino da 7,5 kg, all'uscita è stato contestato dai NOTAV perché è stato valutato troppo... Troppo impattante sul grande festa. Poco ecosostenibile, sì. Grande festa per Alba Parietti. I suoi organi interni hanno compiuto 50 anni, perché chiaramente fuori per, è tutto gli altri, per gli altri c'è un po' da verificare. Altra notizia curiosa: rapina le poste con la nonna e viene arrestato. Si era inceppata, quindi purtroppo la nonna non è stato possibile, ed è certo, non è stato possibile completare questa rapina. Altra notizia recente: Berlusconi cade nel bagno di casa. Sì, ha dichiarato: sono scivolato in bagno. Che capitano. L'assicurazione pagherà 560 milioni di euro. Guarda, cade proprio la cifra a fagiolo, sembrava proprio a fagiolo questa cosa. Vi è capitata. E chiuderei con la cosa di cui si è già discusso ampiamente in trasmissione: il testamento biologico. Finalmente anche l'Italia ha una legge sul fine vita, anche se non capisco. Capisco perché chiamare così la finanziaria, mi sembra un po'. Molto bene, grazie. Arrivederci. La censura è subito caduta sulla testa del nostro Stefano Droi, poi se la riattacca tanto. E adesso invece sentirei brevissimamente Gina dalla provincia di Imperia, prima poi di avvicinarci al nostro appuntamento con Valeria Della Valle. Gina. Sì, Roberta, è quarta volta che ci sentiamo. Caspita, sono quanto onorata, tempo. Gina, onoratissima anch'io. Non lo dico più, signora. No, volevo solo dire questa cosa. Io sono pensionata, come lei certo non lo ricorderà, l'avevo già detto, 980 euro al mese. E sei già fortunata, Gina, scusa se ti rompo. È vero che sono fortunata, però questa mattina con la mia piccola utilitaria, cioè 7 chilometri per andare in farmacia e fare la spesa, la benzina è aumentata, e le medicine, chissà perché, ci hanno messo un bollino sopra e sono cambiate di prezzo, le medicine che quelle da banco, io adopero delle medicine per gli occhi, per così, sono cambiate, ci hanno messo un bollino 3 euro in più, 2 euro in più, e quindi sono venuta a casa con 50 euro, ho preso solo il pane, le medicine e la benzina. Gina, ci ha dato un bello spaccato della tua vita quotidiana, di quella di moltissimi. Come ti dicevo, c'è gente anche che di pensione magari prende 200-300 euro, deve anche pagare l'affitto, non per dirti quindi richiediti fortunata, però questa è la realtà di molti, dicevamo prima dell'allarme Istat lanciato appunto sulla povertà in Italia. Gina, ti abbraccio! No, un abbraccione grosso, ti voglio bene Roberta. Grazie. Perché dici le cose che penso io. Beh, ogni tanto ci si trova anche d'accordo, allora grazie Gina. E adesso l'appuntamento immancabile con la nostra linguista della Sapienza di Roma, Valeria Della Valle, alla quale sottopongo il termine, cara Valeria, ciao, biotestamento. Ci racconti un po' dal punto di vista linguistico. Sì, cosa c'è da dire sul biotestamento? Sarò velocissima come al solito. Beh, intanto l'espressione che ora usiamo sempre, biotestamento, testamento biologico, è stato un tentativo di tradurre l'espressione corrispondente inglese, nata molto prima che nella lingua italiana, che è living will, e che esprime meglio la volontà del vivente. Noi l'abbiamo tradotta in maniera, come posso dire, non saprei se ipocrita o buonista, e certamente è un bel esempio questa espressione di manipolazione linguistica. politica, no? Con le parole si può manipolare tutto, però siccome come al solito non voglio chiudere con una cattiveria ma sorridendo, forse solo viene il sospetto che quando si parla di questi argomenti, dei quali cioè, davvero dovremmo parlare più spesso, noi italiani così ricorriamo a formule un po' scaramantiche che facciano pensare con quel bio così generico più alla bioarchitettura, ai bioalimenti, allo bio-yogurt che alle decisioni che dobbiamo prendere in momenti difficili e seri. Non male, grazie Valeria Della Valle, effettivamente come grazie riflessione. Ciao Valeria. Aldo, ce la fai in diciamo 22 secondi? Beh, non credo. Non è stata difficile perché la mia, innanzitutto non pensavo di volere né di dover intervenire. Invece hai dovuto proprio intervenire. Sì. Che una considerazione a livello scientifico, sociologico e psicologico. Che ascoltando le dichiarazioni dell'esponente del PDL, ma insomma, potrebbe essere anche del PD, del comune di Pavia, insomma ho pensato che le donne nonostante tutto soffrono ancora del complesso della Cenerentola. Sono assolutamente d'accordo Aldo. È il complesso della Cenerentola, sì. Sarà dura. Quando sai di essere, ti consideri di serie B. Sì. Io ho 75 anni e purtroppo vorrei che il mondo fosse rosa, guardi, perché Aldo, posso venirti a trovare? Dove abiti? Io abito a Roma. A Roma, siamo un po' lontani. Ma intanto però avrei tanto piacere di sentirla. Io qualche volta vengo a Milano a presentare dei libri, a fare delle conferenze. Prova a chiamare al centralino, Intanto ti abbraccio, però Aldo. Lei deve dire al centralino che Aldo da Roma richiamerà e io le do avvisate gli do il centralino di fare bene meno. Molto bene, caro Aldo, grazie, ti abbraccio. A volte gli uomini tirano su più delle donne, devo dire la verità. Ritorniamo però a Massimo Fini, dicevo il mio maschilista preferito. Massimo, tuttavia, non so se interrogarti su in questi ultimi 32 secondi sulla questione compagno sì, compagno no, oppure sottoporti questa cosa. È una ricerca della Scozia, di un'università della Scozia, che dice che la voglia di alcol e di dolci è nel DNA degli europei. E tu mi sa che questo DNA ce l'hai proprio, di la verità. Io i dolci mi fa schifo, ma come l'alcol schifo? Certo no. Quindi, vedi, ci troviamo, io l'alcol invece, insomma, i dolci li mangerei praticamente da mattina a sera a notte, senza so, siamo molto europei. Volevo dire una cosa sulle donne in politica. In due secondi, anche perché non ti voglio più sentire sulle donne, però dillo, visto che stiamo... Bene, niente, non hanno portato il loro specifico femminile, ma si sono appiattite... Sul maschile. Questo bravo, sai perché? Perché le donne, quelle poche donne che fanno passare, devono appiattirsi sul maschile, se no non vanno bene. Facciamo 1-0 per me questa volta? O facciamo uno pari, dai. Come vuoi. Tanto con le donne si perde sempre, fai 1-0. Massimo, ti mando un bacio vincente a Massimo Fini. Ciao Massimo, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.